24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Eccoci qui, è sempre un po' più tardi, affannati alle 6:36 minuti, anche noi ci affanniamo. Ma subito mi si è aperto il bar, mi si è alzata la saracinesca nel nostro bar di Radio 24, siamo qui in diretta fino alle 9, cari ascoltatori. Ci seguite anche se volete su Twitter, Alino Milan, sono io, 24 mattino è la trasmissione. Chi è che c'è nel bar di oggi? Ah no, è perché ero preoccupato. Il caffè volentieri a tutti quanti. Oh, ero preoccupato che Nicole Minetti non si presentasse oggi a offrire il caffè a tutti quanti. Intanto, un ritorno. Alessandro Giglioli, buongiorno. Senti la moca, buongiorno, già che va. Col suo piovono rane, giornalista dell'Espresso. Voglio salutare, noi abbiamo questi mezzi potentissimi, possiamo offrire un caffè anche al politologo Edward Luttwak. Buongiorno, anzi, che ore sono? Dov'è lei, professor Luttwak? Io sono a Washington. A Washington. Mezzanotte e mezza. Un caffè prima di andare a dormire. Non è il massimo, eh? Non è proprio quello che dicono di fare. Lei la conosce, Nicole Minetti? Paga lei questo caffè? Lamentevolmente no. Lamentevolmente. Sentite anche ormai come padroneggia la lingua. Quante lingue sa lei, Luttwak? È vero che sa 6-7 lingue? Così dicono. Una delle esperienze è telefonare a Luttwak e sentire la segreteria telefonica. Non finisce più perché ci sono 6 lingue. Guarda che il messaggio ce l'ha in quale lingua? In francese, in spagnolo? Non so, devo verificare. Deve verificare. Io vi voglio far sentire intanto... l'inno. Se voglio far partire questa musica perché vi devo far sentire un quiz, vi devo fare un quiz, vi devo fare una domanda. Sentite che... Che marcetta! Alessandro Giglioli, sai l'inno di chi è questo? Che cos'è? Mira, cos'è sta roba che mi fai sentire? No, senti bene, senti come gira. Ma gira un'altra cosa. Non so se a Washington si sente bene al telefono. Lei, professor Luttwak, ha intuito l'inno di... Le ricorda qualcosa quest'inno, no? No, purtroppo no. Non sono molto musicale. Allora sentiamo ancora qualche secondo, poi svegliamo l'arcano. È l'inno della provincia di Reggio Calabria. Senti Alessandro Giglioli come gira, come entra nei cuori dei calabresi o dei reggini. Adesso la scarico. Lo trovi facilmente l'orchestra dei fiati voluta ardentemente dal presidente della provincia di Reggio Calabria. Questo è l'inno. Qua, insomma, si parla tutto di sprechi ancora nei titoli dei giornali. Per il Corriere della Sera, svolta nell'inchiesta sul Lazio, Repubblica, subito il decreto taglia province. Professor Luttwak, lei capisce dall'America il senso di avere province, regioni, comuni, circoscrizioni, Stato, Unione Europea e forse qualche gradino l'ho saltato? Ma è essenziale per la democrazia di avere il governo vicino al cittadino e non in qualche capitale remota. Il decentramento è un principio fondamentale, però ognuno di questi livelli deve autofinanziarsi, quindi deve persuadere i cittadini di pagare le tasse per i servizi che ottengono, cioè tu puoi avere regioni, province, contee, dipartimenti, città, cittadine, però in uno di questi casi i soldi devono venire dai cittadini che li pagano perché ricevono dei buoni servizi. Quando tu hai una falsa decentramento, dove i soldi vengono dal centro, allora vuol dire che stai mantenendo molte burocrazie, molta gente che non deve fare niente per il cittadino perché non dipende dal cittadino per essere pagato. E mi sa che sta succedendo così in Italia, no? Io credo che c'è il vero decentramento, dove tu distribuisci funzioni, poteri a tutte queste entità, però si devono autofinanziare, cioè devono poter raccogliere le tasse per pagarsi. Se i siciliani vogliono la regione Sicilia, devono loro volontariamente mantenere la regione Sicilia e considerarla così importante e utile da pagare le tasse per questa regione. Sa, mi sa che qui invece manteniamo, o no, Alessandro, a quanto ho capito, cene, orchestre. In questo caso il presidente della provincia di Reggio Calabria ha voluto fortemente l'orchestra di fiati per fare l'inno. Manteniamo queste cose qua, manteniamo molti parenti. Sì, ma guarda che tu stai parlando di un paese in Italia dove invece di andare a cercare questi scandali e scandalucci, c'è il semplice fatto, per esempio, che i giudici in Italia sono pagati 3 volte più dei giudici americani o doppio di quegli altri europei. Eccolo lì. In un paese dove, per la classifica della competitività italiana, per altri versi l'Italia evidentemente è uno dei paesi top del mondo, perché deve essere i primi 10, okay. Mentre tutto quello che ha a che fare con la legalità, le corti, i giudici, è lento, i magistrati, è lento. Tutto questo è a livello di Burkina Faso. A livello del Quindi Burkina Faso. Quindi i giudici devono essere pagati come in Burkina Giglioli, qui dobbiamo difendere... dico che... se tu vuoi guardare sprechi, sì, uno può fare molto... No, no, ma certo, possiamo mettere, dentro ma, tutto. Ma non contano quando i salari legali, ufficiali, non rubati, sono così esagerati per così tante persone. Alessandro Gigli... la provincia di Bolzano, sì, che guadagna più di Obama. Più di Obama, vabbè, quella è diventata storica. O i giudici della Corte Suprema italiana che devono guadagnare 3 volte più di quelli americani. No, ma certo, Alessandro, aiutami a esondare Lutwak, a fermare, sta esondando Lutwak. Lui fa 7 lingue, le deve parlare tutte, ma poi fa ragionamenti assolutamente condivisibili, nonostante sia lontanissimo da me come impostazione. Lo dico anche perché così... In Italia questo tipo di spreco di denaro pubblico, così come altre cose di cui tu, Milan, parli tutte le mattine, anche Cruciani ne parla la sera, è giusto così, è diventato una specie di perverso welfare. Mi spiego meglio, se posso, alle 6:20 di 6:30 di mattina. In Italia il welfare è veramente... pessimo, il welfare è pessimo perché si basa su 2 principi, la famiglia, sì, che può voler dire anche il clan, no? Può voler dire il disoccupato che viene mantenuto dalla sorella, ma può voler dire anche il clan, il cugino che ti dà la preferenza, ti aiuta, eccetera, eccetera, e lo Stato che distribuisce questi soldi in modo assurdo, perché diciamo pure quelli sono soldi pubblici che non vengono distribuiti a seconda dei bisogni, a seconda delle classi sociali, a seconda delle povertà, ma vengono distribuite a seconda delle amicizie, perché suppongo, ho buoni motivi per ritenere, i soldi che abbiamo buttato per l'inno della provincia di Reggio Calabria potessero essere più utilmente usati per fare un asilo, per migliorare una scuola, per mettere a sicurezza un suolo pubblico. Ma che come poi questo inno straordinario? Tra l'altro mi sono arrivati già 2 messaggi al 349-238-6666. Uno mi ha scritto, effettivamente sembra uno di quegli inni di un ex stato dell'Unione Sovietica, lo Sprechistan. Potrebbe... Esatto, lo Sprechistan, bellissimo. Lo Sprechistan. No, succede così, succede che i soldi pubblici che noi tutti paghiamo con le nostre tasse saremo anche, non dico felici, ma come dire, un po' meno incazzati nel darli allo Stato se venissero distribuiti in un welfare decente e come dire basato su delle reali bisogni, su delle reali possibilità. Se viene distribuito... Allora attenzione però, Mina, perché quelle soluzioni sono 2 che si stanno profilando in Italia, anzi sembra essercene una sola. La soluzione sembra essere allora quella di abbattere completamente il welfare. Non siamo stati capaci noi italiani di creare un welfare giusto, e quindi non diamo più soldi di nessun tipo allo Stato e lasciamo che tutto sia avvenga come penso vorrebbe Lutwak, cioè sulla base di una sorta di darwinismo economico selvaggio. Chi ce la fa ce la fa, chi non ce la fa morto. Ecco, questo è il grande equivoco che si sta, e questo voglio lanciarlo anche se sono le 6:40 e anche se come dire, questa è la radio di Confindustria, a me interessa che riusciamo noi italiani a fare un passettino in più, cioè a dire questi soldi che noi buttiamo allo Stato potrebbero essere utilmente utilizzati in un welfare pulito, che va ovviamente e su questo sono d'accordo con Lutwak, a braccetto con una serie di cose. Si pensi alla norma anticorruzione, sì, che non passa, sì. Si pensi io sul finanziamento della politica ho le idee chiarissime, poi se vuoi un giorno ne parliamo. Parliamo una proposta secca per il finanziamento. Ne parliamo tra un attimo, Lutwak, rientro tra poco con anche Francesco da Siderno in provincia di Reggio Calabria, che ci scrive: ma non sapevo di avere questo inno, adesso me lo scarico subito e lo metto come suoneria dello smartphone. Eccolo qua, mi è già entrato nella testa, anche un po' nel cuore, l'inno della provincia di Reggio Calabria, eh? Allora, siamo qui con Alessandro Giglioli, Piovono Rane, e il politologo Edward Lutwak da Washington. Che voleva aggiungere Lutwak? Poi le vorrei dare uno solo spunto. Solo una cosa, perché qualcuno, forse il suo ospite, ha attribuito darwinismo a me. Questo naturalmente crede in darwinismo. Questa è una cosa molto interessante, perché se tu guardi la distribuzione della torta italiana, dove ci sono queste grandi fette così grasse, ricche, che vanno ai giudici di un sistema che non funziona, tu vedi che la fetta molto molto sottile è quella degli operai italiani. Gli operai italiani sono molto produttivi, sì, in se stessi. Sono imprigionati in un sistema di 1000 regole, sostenuti in molti casi dai propri sindacati, e che assicurano che le loro paghe devono essere molto basse, perché non possono essere molto produttivi, visti tutte queste regole e regolamenti che sono così sostenuti. Regole per garanzia di ogni tipo. Non so, la regione Lazio, per esempio, sì, so per caso, decreta che se tu hai un albergo, hai una stanza matrimoniale, deve essere di 14 metri quadrati, o forse 14.202, se di 13 non va bene. Quindi ci sono regole che proteggono interessi, poi ci sono regole che non proteggono ben niente, ma c'è questa marea di regole, sì, che ingessa l'intera economia. E questo ha l'effetto di degradare la produttività naturale dell'operaio italiano. Vuole sapere, a proposito di regole, cosa è successo ieri a Napoli? Sono quelli che parlano con darwinismo e così via, che hanno, anche per lottare contro il darwinismo, come lo chiamano, hanno le regole. Le regole ingestono troppe regole e rendono gli operai italiani gli unici che non partecipano alla cuccaglia. Sa cosa è successo ieri a Napoli, Lutwak? Che il 60%, c'è stata un'epidemia, il 60% di coloro che guidano gli autobus si sono dati malati. Un'epidemia incredibile, ovviamente. C'è tutto un sciopero. Malattia. Tu puoi fare quello che vuoi, non sei competitivo, non devi fare la concorrenza. Però si danno malati. Senti una cosa, il fatto è che c'è un'economia ingessata che nessuno ha voluto liberalizzare, e vedo che il governo Monti neanche lui sta liberalizzando. E questo degrada la produttività, questo rende fatale condividere la stessa valuta di paesi molto più produttivi. Sì. E che perciò da quando l'Italia è nell'euro la crescita è zero, tutti questi 10 anni perduti e così via. Quindi tutti questi sindromi che sono sistemici, io li considero molto importanti. Però i voi della media, sì, voi state parlando continuamente di questi piccoli scandalucci che sono incresciosi, che sono schifosi, se vuoi, ma non i veri scandali, ma che sono da 2 lire comparato al fatto del sistema. 2 lire le conseguenze sono gli operai che lavorano nella libera industria, non lavorano per un servizio pubblico dove possono scioperare, ma sono in concorrenza con tutto il mondo per i prodotti che fanno. Eccoci ancora qua allora, cari ascoltatori, sono le 7:20 in questo istante, siamo pronti alla lettura dei giornali. Vi voglio ricordare che tra un'ora alle 8:15 avremo ospite il presidente dell'Unione delle Province Italiane, le province che devono riordinarsi se non scomparire. E poi parleremo ancora di regioni, vi spiegheremo forse un po' meglio, anche attraverso l'aiuto di un consigliere regionale della Liguria, come funzionano i trucchetti per i rimborsi chilometrici, dove si annidano tante degli sprechi di cui abbiamo letto sui giornali in questi giorni. Di questo parleremo più avanti, però ora appunto tuffiamoci nella lettura dei quotidiani in edicola. È martedì 2 ottobre, uno sguardo ai titoli. Il Sole 24 Ore, che oggi esce a 2 euro con il libro L'impresa allegato. Fondo Monetario Internazionale, meno tasse sul lavoro, questo è il titolo di apertura. Poi il Corriere della Sera, svolta nell'inchiesta Lazio, nuove accuse a Fiorito. Repubblica, subito il decreto taglia province. Il Fatto Quotidiano, tangenti, record mondiale, corruzione, legge di facciata. Come vedete ogni quotidiano ha una scelta diversa, più o meno, sulle aperture. La Stampa, arriva il nuovo redditometro. Libero a processo il sistema PD, e anche il giornale Bersani che botta, e la richiesta di rinvio a giudizio per Penati. Il Messaggero, Lazio, nuova inchiesta. L'Unità, paghino gli speculatori. Il governo italiano dica sì in Europa la tassa sulle transazioni finanziarie. Da ieri l'Unità ha iniziato questa campagna sulla Tobin Tax. Monti guarda avanti, così apre L'Avvenire, mentre il Manifesto racconta una storia vera con la morte a Londra del più grande storico marxista del Novecento, Eric Hobsbawm. Questo è l'apertura del Manifesto. Io però voglio subito raccontarvi, perché sono tanti gli articoli che raccontano come il denaro pubblico nelle regioni, avete sentito poco fa anche Edward Luttwak nei nostri microfoni dire: vi concentrate su questi scandalucci, per carità importanti, però è il sistema burocratico italiano che andrebbe semplificato, questo è il vero scandalo dell'Italia. E comunque scandalucci che stanno prendendo sempre più pagine sui giornali e riguardano le regioni, le province. Per esempio oggi, come evitare di leggere la pagina di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, la trovate a pagina 5, super viaggi in Indonesia e Australia, ecco le missioni all'estero delle regioni. Si poteva forse non ricambiare la visita della delegazione dei governatori delle regioni indonesiane? Il sacrificio è toccato al vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Raffaele D'Ambrosio, dell'UDC, che alla fine di aprile ha dovuto imbarcarsi su un aereo e andare a Giacarta. Questo il resoconto dell'impegnativa missione. Nel corso della visita è stato ricevuto dal sultano di Ternate, Muzaffar Shah, e da altre autorità del luogo. Il vicepresidente ha incontrato anche il Maharaja Raja Agung, e al termine della sua visita è stato ricevuto a Giacarta dal vice ambasciatore Mario Alberto Bartoli, con il quale si è intrattenuto a colloquio. Stop. Questo è il resoconto della missione. Dure incombenze della politica, commenta Rizzo. Da quando le regioni hanno deciso che fanno loro politica estera, è un via vai continuo. D'Ambrosio vola in Indonesia e Isabella Rauti, consigliera PD-Linea della Regione Lazio, va in Libano per incontrare la giornalista Jocelyn Query, esponente dei movimenti laici, e anche la parlamentare Setrida Geagea, impegnata a combattere la violenza sulle donne, mentre il direttore generale dell'assessorato al lavoro della Regione Sardegna, Massimo Temussi, partecipa con Fabio Meloni, addetto stampa dell'assessore all'immigrazione Antonello Liori, impossibilitato a partecipare, come si premura a farci sapere l'ANSA, a una visita incontro coi sardi residenti in Australia. Il consigliere regionale della Calabria, Alfonsino Grillo, parte alla volta di Montreal per un vertice con la Federazione Calabro-Canadesi Est Canada. Oppure Orfeo Goracci, presidente del Consiglio regionale dell'Umbria, dell'emigrazione, può rinunciare a una missione della regione in Canada, a Toronto, per incontrare gli emigrati umbri. gettonatissima è l'Australia, basti dire che a febbraio di quest'anno, prima della delegazione della Calabria, ne sono arrivate ben due della regione Puglia per promuovere le loro golosità. Ma, scrive Rizzo, si tratta di semplici dilettanti in confronto a Francesco Storace. Quando era a governare la regione Lazio, i prodotti tipici regionali uscivano dall'atmosfera terrestre, altro che Australia. Non ci credete? 5 ottobre 2004, la regione Lazio andrà nello spazio in una missione congiunta che porterà in orbita la navicella Soyuz con a bordo il cosmonauta viterbese Roberto Vittori. E beh, insomma, record di viaggi, poi ci sono le ambasciate notoriamente di molte regioni, in rappresentanza delle regioni all'estero, super viaggi in Indonesia e Australia, le missioni all'estero delle regioni, così Sergio Rizzo a pagina 5 del Corriere della Sera, mentre, visto che noi avremo il presidente dell'Unione delle Province Italiane, Castiglione, che è anche il presidente della provincia di Catania, oggi Repubblica per il secondo giorno a pagina 2 e 3, dopo l'inchiesta di ieri sugli sprechi delle province, torna su questo tema con Annalisa Cuzzocrea. Sprechi, il governo accelera, ecco il decreto taglia province, il via libera a fine ottobre, cioè il governo vuole porre un piede sull'acceleratore per quel che riguarda il riordino delle province. Patroni Griffi, il ministro, dice non si può più stare fermi. Ci sono, sentite bene, cari ascoltatori, resistenze esplicite in quattro regioni. Basilicata, Molise e Umbria sono contro la provincia unica. Ne avevamo parlato, vi ricordate? Non si può. Pare che rimanere in regione con un'unica provincia, il capoluogo della regione, non si capisce per quale arcano motivo. Non si può. In Val d'Aosta infatti hanno una sola provincia, ma lì dicono che c'è l'autonomia e quindi non si può prendere ad esempio la Val d'Aosta. Basilicata, Molise e Umbria, che dovrebbero con il riordino da due province scendere a una provincia, si oppongono, chiedono le deroghe, fanno i ricorsi, perché dicono che con una provincia, cioè un capoluogo che coincide con la regione, non si può. Si potrebbe dire banalmente eliminiamola, anche quell'unica provincia, ma comunque questa è una soluzione evidentemente rivoluzionaria in Italia. Comunque il governatore della Basilicata fa sapere, Repubblica, Vito De Filippo ha annunciato il no alla provincia unica, no, il governatore della Basilicata ha detto di no, dicendo che anche Umbria e Molise si opporranno a questo. Ma non solo, in Veneto hanno deciso che le province devono restare 6, quindi dovrebbero essere meno. No, in Veneto hanno deciso che devono restare 6. Belluno viene confermata per la specificità riconosciuta dallo statuto. Treviso si è annessa invece un comune, Scorzè. Vuole annettersi un comune, non lo so se se l'è già annesso, forse sono partiti lancia arresta, se lo sono conquistato nottetempo, e quindi questo aumenterebbe l'estensione territoriale, per cui rientrerebbero nel salvataggio. Padova vuole salvarsi per le caratteristiche della realtà territoriale, che non si capisce, ogni territorio ha una sua caratteristica. Vabbè, tra l'altro accomuna a queste resistenze, deroghe delle province, la storia che trovate raccontata da Giacomo Di Girolamo a pagina 3 di Repubblica, che riguarda Trapani. Udite bene, perché a Trapani succede questo. Come spendere 800.000 euro in mezz'ora? Che non è qualcuno affetto da shopping compulsivo, ma il presidente della provincia di Trapani, Girolamo Turano, doveva dimettersi per candidarsi alle elezioni regionali siciliane e l'ha fatto con puntualità alle 23.50 del 30 agosto, altrimenti poi non ce la faceva a candidarsi. Poco prima però, alle 23.20, dunque mezz'ora prima di dimettersi, Turano ha chiesto alla sua giunta di deliberare la più formidabile raffica di contributi per associazioni, parrocchie, tornei sportivi che la storia del suo ente abbia conosciuto. 7.000 euro alla Sagra della Cassatella, 20.000 all'iniziativa Alla Scoperta del Pesce Dimenticato, 10.000 al Festival degli Aquiloni, il Festival degli Aquiloni, 5.000 euro per la banda musicale di Castellammare del Golfo, altrettanti per il Comitato per i Festeggiamenti di Maria Santissima della Confusione, e poi sì, di confusione ce n'è parecchia, pare. Poi una serie di spettacoli, decine di migliaia di euro ad Alcamo, paese natale del presidente. In tutto 800.000 euro distribuiti mezz'ora prima di dimettersi il presidente della provincia di Trapani. Vorrei fargli una chiamata, non è escluso nei prossimi giorni. Che è certo che la sagra della Cassatella, che ha beneficiato di un po' di migliaia di euro dalla provincia di Trapani, non male, non male. Allora, l'apertura del Sole 24 è dedicata al tema tasse, che è un tema sul quale il presidente di Confindustria Squinzi qualche giorno fa ha detto l'Italia muore di tasse, le imprese muoiono di tasse. Ora il Fondo Monetario Internazionale, questo è il titolo di prima pagina, chiede meno tasse sul lavoro. Il Fondo Monetario invita a ridurre le tasse sul lavoro, un giudizio positivo sull'impianto della delega fiscale, ma il disegno di legge resta silente sull'alta tassazione a carico di lavoratori e imprese e sulla limitata base IVA. Anche se il governo, attraverso il sottosegretario all'economia Vieri Ceriani, è stato molto chiaro. Ridurre il peso fiscale non sarà possibile prima del 2014, quindi cari italiani mettetevi l'animo in pace. Il governo Monti fa sapere che si occuperà di questo tema il prossimo governo, visto che Monti ha detto lasceremo ad altri. A me è venuto da ironizzare a chi? A Draghi, a Moody's, a Fitch o ad altri, nel senso la politica, beh, lasceremo ad altri vuol dire un po' tutto. Comunque Monti, adesso a parte gli scherzi, ieri il premier ancora ha detto lasceremo ad altri questo paese e speriamo, e sono confido, che quando lasceremo questo paese ad altri sarà un paese meno rassegnato. Non ha detto neanche quando, nel 2020? Vabbè, no, insomma, a parte le battute. Comunque Mario Monti ancora una volta si è concentrato invece sulla lotta all'evasione fiscale. Intolleranza verso chi evade, questo ancora detto ieri a Milano. L'Italia dovrebbe dividersi non tra destra e sinistra, dice Monti, ma tra chi paga le tasse e chi no. Oh, che ne pensate? Beh, interessante, su questo non è la prima volta che batte su questo tasto il premier. Tanto che oggi Repubblica mette in pagina, in prima pagina, poi continua a pagina 13, un colloquio del vice direttore Massimo Giannini con Attilio Befera, il capo dell'Agenzia delle Entrate. Il titolo è L'effetto Cortina sulle entrate fiscali. È un Attilio Befera che dice l'evasione insieme alla corruzione resta una grande piaga nazionale. Insomma, il mantra di Befera e anche del governo Monti, questa della lotta all'evasione, è una tappa nevralgica per il paese. Ma poi, ecco, soprattutto annuncia, ormai sono addirittura d'arrivo, le due novità che si prospettano, cari ascoltatori, eccole qua. Le due nuove armi, tra virgolette, per contrastare l'evasione fiscale, che si stanno affinando e sono pronte per l'offensiva antievasione di fine 2012, inizio 2013. La prima è il redditometro. Ormai tutto è pronto per l'avvio del nuovo strumento operativo dal mese di ottobre, dunque a giorni, e che con quasi 100 nuove voci dovrebbe consentire una significativa emersione di materia imponibile nell'area degli invisibili del lavoro autonomo. La seconda arma, ancora più incisiva, e secondo me questa promette di suscitare ancora più polemiche, è l'anagrafe dei conti correnti. L'anagrafe dei conti correnti. Befera sta perfezionando gli ultimi dettagli col garante della privacy, che ha chiesto la creazione di un canale informatico riservato per la trasmissione e la gestione dei dati bancari. Secondo il timing di Befera, fa sapere Giannini, dal 1 gennaio tutte le banche inizieranno a trasmettere all'Agenzia delle Entrate i tabulati con la movimentazione bancaria di tutti i clienti. C'è già chi grida allo scandalo, chi evoca il Grande Fratello, qualche preoccupazione è legittima, riconosce la stessa Repubblica. Befera giura che non ci saranno abusi né violazioni alla riservatezza. Vedremo. Nel paese un po' dove la privacy è un po' il paese di Pulcinella, diciamolo chiaramente, io temo che succederanno delle cose brutte, però prenderanno tutte le contromisure, ovviamente. Parte a breve l'anagrafe dei conti correnti, vorrebbe farlo partire Befera in questo colloquio con Repubblica dall'inizio dell'anno prossimo 2013. Tutti i conti correnti scandagliati con le banche che danno all'Agenzia delle Entrate questo. Non sfuggirà più nulla. Le regioni, come detto, vabbè, qualcosa abbiamo già letto all'inizio della rassegna stampa, ma le inchieste continuano. Si è aperta una nuova inchiesta sul caso Lazio, vale a dire una nuova accusa ora che va a colpire i coordinatori regionali del Popolo della Libertà, questo almeno a pagina 2 del Corriere della Sera, ma un po' ovunque. Nell'indagine su Fiorito sono finiti i vertici del PDL laziale. E l'ex fidanzata anche di Fiorito, che è stata interrogata, coi bonifici curavo gli elettori ciociari. Ma guardate, quello che sta emergendo soprattutto sono, beh, riguarda la regione Lazio, un nuovo scandalo che il Messaggero mette in prima pagina, che riguarda la buonuscita, il TFR praticamente, per i consiglieri, sciolto il consiglio regionale, c'è la buonuscita, scoppia il caso buonuscita, a ogni consigliere 30.000 euro. Io su Twitter non mi sono trattenuto, ho scritto il TFR di tuo nonno, perché insomma anche 30.000 euro per la buonuscita ai consiglieri regionali, eccolo qui, Mauro Evangelisti in prima pagina, pure la buona uscita, Franco Fiorito and Company, i consiglieri regionali che sommando le varie indennità si mettono serenamente in tasca ogni mese circa 12.000 euro, a fine legislatura incasseranno anche una sorta di liquidazione, 30.000 euro, che non sono proprio spiccioli, per aver lavorato meno di 5 anni, 30.000 euro, trovatemi un posto di lavoro che vi dà un TFR del genere, lavorate 3 anni e avete TFR da 30.000 euro, si chiama assegno di reinserimento, si reinseriscono nella società, quando erano in consiglio regionale evidentemente ne erano temporaneamente fuoriusciti, visto che in media l'avventura del consiglio regionale del Lazio consentirà a Franco Fiorito di ricevere un gradito accredito sul conto corrente che vale 10.000 euro ogni anno di legislatura. Questo è l'assegno di reinserimento. In media se ne andranno con un regalo finale di altri 30.000 euro che per neppure 3 anni di impegno sono un bel colpo. Poi il Messaggero dice, poi che impegno? Tenendo conto che parliamo di un consiglio regionale che non passerà alla storia per produttività, in cui 30 volte su 69 sedute è mancato il numero legale, in cui alcune commissioni si sono riunite appena 3 volte, qualcosa insomma non torna. Ma il nuovo scandalo che è emerso è quello della Parentopoli, soprattutto ci si concentra alla regione Piemonte, sia il Fatto Quotidiano a pagina 4, sia il Corriere della Sera a pagina 3, con Marco Imarisio, mogli, figli, amici di partito, ecco il fascicolo chiesto da Cota con lo staff della sua giunta, niente sarà più come prima. Ora promettono in Piemonte, ma non si arriva mai ai titolari delle liste fai da te, scrive Imarisio, che hanno assunto nella loro squadra mogli, fidanzate, parenti stretti. E ci sono tutta una serie di nomi, per esempio l'assessore ai trasporti Barbara Bonino ha fatto lavorare nel suo staff il fratello, ma ha detto avevo piacere di avere il suo appoggio per impostare il piano della logistica. Ma in un anno ha lavorato e ha guadagnato solo 300 euro, 300 euro. Spero al mese almeno 300 euro. Avevo chiesto ai dirigenti di reclutarlo a costo zero, non si poteva, allora si è scelto il minimo per un contratto. 300 euro annui per il contratto. Ma chi è che lavora per 300 euro all'anno? E 300 euro sono stati, giura l'assessore che ha assunto il fratello, ha fatto collaborare il fratello, per un sacco di lavoro, sa? Il tempo di avviare il lavoro e lui è tornato alla sua attività di libero professionista. 300 euro. E poi dice, cosa c'è di scandaloso? Negli Stati Uniti c'è lo spoil system e nessuno grida allo scandalo. È intervistata dal Corriere della Sera, Ma da noi però non è possibile. Certo, ma è previsto che gli incarichi nelle segreterie degli assessori possano essere dati a personale di fiducia. È previsto. Tutto sempre a norma di legge. Anche Stefano Caselli sul Fatto Quotidiano, parenti e contenti. Piemonte, nomine e consulenze, coi soldi pubblici le istituzioni assomigliano al tinello di casa. Insomma, tutta una serie di persone che si assumono un po' di parenti. Vabbè, qua c'è poco da le follie del Regno di Sicilia per il giornale, 2,2 milioni di euro per i cavalli, 40 palafrenieri assunti all'istituto di incremento ippico che guadagnano 55.000 euro, raccontano Gianmarco Chiocci e Simone Di Meo. Insomma, sembra una giungla davvero come ha detto qualcuno in Parlamento, leggendo ogni pagina di giornale sulle regioni, ditemi la cosa peggiore che potete immaginare e domani succederà. Per quel che riguarda invece i casi di presunta corruzione, certamente la notizia politica del giorno è che è stato richiesto il rinvio a giudizio per l'ex leader del Partito Democratico in Lombardia, Filippo Penati, che non si è ancora dimesso e non intende dimettersi dal Consiglio regionale. È stato sindaco di Sesto San Giovanni, è stato presidente della provincia di Milano, racconta Federico Berni a pagina 8 del Corriere della Sera, tangenti per milioni al sistema Sesto, chiesto il rinvio a giudizio per Penati. Nei suoi confronti e per altri 22 imputati, PM di Monza chiedono il rinvio a giudizio, le accuse sono corruzione, concussione, finanziamento illecito ai partiti. Anche Repubblica dedica 2 pagine a questo, i PM processate Penati per la tangentopoli di Sesto, il PD ora dice deve dimettersi, lui replica non c'entro e non mi dimetto, in una virgolettato sul Corriere della Sera Andrea Senesi a pagina 9. Quando abbiamo perso le primarie a Milano mi sono dimesso da capo della segreteria di Bersani. Poi, dopo le indagini e la notizia, da vicepresidente del Consiglio regionale, abbandonando ogni incarico di partito, rinunciando perfino a far parte del gruppo consigliare del PD. Insomma, sono il recordman dei passi indietro, io. Ma quello che gli chiedono molti, cioè abbandonare anche lo scranno del Consiglio regionale della Lombardia, quello no, non mi dimetto. Lo farò solo se l'impianto accusatorio sarà confermato. Per ora c'è il rinvio a giudizio. In tutto questo, in tutte queste belle notizie che vi ho raccontato dai giornali, ma queste sono quelle che raccontano i giornali, la disoccupazione è ai record dal 2004. Così titola pagina 8, il Sole 24 Ore, l'emergenza lavoro, cioè le cose che contano, le cose vere, le cose importanti, il lavoro su queste, la disoccupazione è appunto a livelli record dal 2004, ancora ai massimi in Italia. Ad agosto il tasso è rimasto stabile per il terzo mese consecutivo al 10,7%, è il dato più alto dal 2004. Ora mi voglio concentrare su una notizia che riguarda Italia, Germania. Avete sentito anche nel nostro giornale radio, tutti i giornali dedicano almeno mezza pagina a questa notizia che effettivamente affonda le radici nella storia, ma è ancora molto attuale perché proveniamo da lì. E poi è un episodio che nella storia italiana ha segnato davvero un momento di grande dolore. Vale a dire la strage di Sant'Anna di Stazzema, il 12 agosto del 1944, in provincia di Lucca, Sant'Anna di Stazzema, appunto, i nazisti massacrarono 560 civili, tra cui anziane, donne, bambini, non risparmiarono davvero nessuno. In Italia si è arrivati a una sentenza definitiva contro, individuando gli autori materiali delle SS di questa strage e condannandoli fino in Cassazione. Ebbene, la Germania, cari ascoltatori, sapete cosa dice? Perché queste persone ovviamente sono tutte nel frattempo in Germania, hanno condotto una vita normale. Niente processo agli aguzzini di Stazzema. I giudici tedeschi di Stoccarda hanno detto non è provata la loro responsabilità individuale. Questo dovevate fare in Italia. Per ciascuno degli indagati si sarebbe dovuto dimostrare una responsabilità individuale, cosa che non è stata fatta. E dunque i 10 ergastoli decisi dalla magistratura italiana dopo indagini rigorose, 3 gradi di giudizio, non hanno alcun peso per i giudici tedeschi. Il dolore ovviamente dei superstiti di quella strage, tra cui Ennio Mancini, 75 anni, era un bambino, fu salvato da un soldato nazista che sparò in aria perché si rifiutò di ucciderlo, lui che era bambino, dice «riconsegnerò alla Germania l'alta onorificenza al merito che mi hanno dato qualche anno fa». Questo proscioglimento è uno scandalo. La Germania dice che noi dobbiamo fare i compiti a casa in economia, ma gli amici tedeschi dovrebbero farli nella storia. E un po' tutti i titoli si assomigliano. Sant'Anna di Stazzema, prove insufficienti e dunque niente processo alle SS. Questo è il titolo, per esempio, del secolo XIX. Oppure La Stampa, Sant'Anna di Stazzema, la Germania assolve le SS. Davvero una notizia non bella, che proviene dai nostri cugini, quelli appunto che ci dicono di fare i compiti a casa in economia. Chiudo con una notizia che proviene da Napoli, mi ha molto colpito, tipica tipica di un certo modo di vedere il servizio pubblico, di essere dipendenti pubblici. Gli autisti si danno malati. Napoli KO. Ieri, forse se siete cittadini di Napoli ve ne siete accorti, Libero dedica questo un trafiletto a pagina 14. Causa improvvisa mancanza del personale, non è garantito il servizio. Ieri i napoletani hanno letto sulla Circonvesuviana, la linea ferroviaria regionale che collega Napoli all'Interland, questo messaggio. Perché c'è stata un'epidemia? Cosa è successo a Napoli? Un'influenza stranissima. Ha colpito il 60% delle corse, quindi moltissimi dipendenti appunto del trasporto pubblico locale, per una raffica di certificati medici, firmati tutti da medici dunque, che hanno certificato questa improvvisa epidemia dei dipendenti del trasporto pubblico locale a Napoli. E così succede. E avranno mangiato le cozze e li saranno rimaste qui tutti il giorno prima in una grande cena pagata questa volta, immagino, da loro. Eccoci allora alle 8:17 minuti, avete sentito, Francone Fiorito, Air Batman, è stato arrestato questa mattina. Noi parleremo di regioni tra poco alle 8:30. Prima vogliamo parlare però di province. Saluto con noi il presidente dell'Unione delle Province Italiane, Giuseppe Castiglione, anche il presidente della provincia di Catania. Benvenuto. Buongiorno. Eccoci, buongiorno. Come va? Beh, stanno peggio le regioni, sembra di capire, perché ha sentito la notizia di poco fa, di Franco Fiorito arrestato. Vabbè. Noi abbiamo sempre pensato e immaginato che il tema del riordino delle istituzioni interessasse tutte le istituzioni, non solo le province. Lo abbiamo detto in tutte le salse, lo abbiamo scritto nei nostri documenti, il tema è riordinare le istituzioni. Quindi oggi le regioni sono nel mirino, invece penso che l'impegno prioritario del Paese è procedere ad un riordino serio delle istituzioni e poi dall'altro lato procedere ad una rivisitazione della spesa degli enti locali, sì. Quindi comuni, province e regioni. A questo proposito di riordino, i comitati delle autonomie locali dovranno stabilire come conformarsi al riordino stabilito dal governo e dovranno dire insomma come si riorganizzeranno le province, ma ci sono una serie di resistenze incredibili, presidente Castiglione, mi sembra di capire. Per noi e anche grazie a noi e soprattutto grazie a noi il percorso ormai è un percorso avviato. Entro domani, entro il 3 ottobre, i consigli e le autonomie locali, e laddove non ci sono i consigli e le autonomie locali, le conferenze permanenti delle autonomie dovranno consegnare la prima ipotesi di riordino alle regioni. E chi non lo fa? Il 24 le regioni poi dovranno fare la proposta al governo, che poi dovrà procedere con un atto legislativo. Quindi per noi il percorso è avviato. Il percorso è questo, però le chiedo chi non lo fa. Per esempio, i governatori di Basilicata, Umbria e Molise dicono: noi rimarremo con una provincia da 2-1. Questa cosa non si può fare. E perché non si può fare? Che diamine? Che succede se c'è una sola provincia nella regione? Ma io penso che noi dobbiamo andare avanti così come la legge prevede, quindi anche loro si uniformeranno, le regioni entro il 24 faranno la proposta. È chiaro che ci sono delle resistenze di carattere territoriale, ma il percorso che ha avuto il pieno sostegno nostro, non dimentichiamo che questo percorso inizia grazie anche alla proposta dell'Unione delle Province d'Italia, che ha detto andiamo verso un governo di area vasta, una dimensione ottimale per la gestione dei servizi, quando parliamo di province non parliamo di funzioni che sono già benissimo assolte dai comuni, ma dobbiamo guardare a funzioni di area vasta, pensiamo alla pianificazione territoriale, pensiamo alle scuole superiori, pensiamo alla viabilità, alla mobilità, la banda larga, l'energia, tutto quello che va al di là del municipio. Questo nostro progetto è stato sposato dal governo, con il governo e nonostante alcune resistenze territoriali, che devo dire molta collaborazione sul territorio. In questi giorni con le province stiamo facendo delle consultazioni ed è chiaro che... ma queste resistenze lei è contro, cioè dice sbagliano a resistere per esempio a fare queste, a chi chiede le deroghe, chi ha fatto anche ricorsi al TAR, ci sono province che fanno ricorsi al TAR, la provincia di Lodi lo ha fatto, la provincia di Isernia credo l'abbia fatto, sbagliano oppure no? Sì, ci sono alcuni ricorsi al TAR, là il TAR si pronuncerà. Noi riteniamo che il percorso debba andare avanti, il percorso debba proseguire, quindi che vanno superate quelle resistenze. Il ricorso al TAR è anche sulle procedure adottate, e quindi è un fatto di carattere molto spesso localistico, e quindi sul ricorso al TAR si pronunceranno i TAR. Però questo sicuramente c'è sempre un TAR che salva che in Italia. Promosso, l'Unione delle Province non ha voluto promuovere il ricorso al TAR, non ha sposato la causa, perché ha detto andiamo avanti con il governo. L'unica ricorso che abbiamo sostenuto con le regioni è quello della elezione diretta, cioè l'elezione di secondo livello, a nostro avviso, quando avremo riordinato le province, avremo un governo di area vasta, cioè una dimensione ottimale che va al di là della dimensione dell'attuale provincia. Quando avremo avviato le città metropolitane, avremo assegnato le funzioni, quindi ognuno finalmente saprà chi fa che cosa. Quando le regioni saranno dimagrite rispetto alle funzioni amministrative e sostanzialmente riassumere la funzione legislativa, le regioni sono andate un po' oltre quella che dovrebbe essere la funzione essenzialmente legislativa, e invece dare ai livelli locali, comuni e province, le funzioni amministrative, quando tutto questo sarà riordinato, Presidente, sarà fatto, quando città metropolitane, io penso che l'elezione non può che essere diretta. No, però sembra tutto quando, no? Sembra la canzone. No, sono tutti fatti che stiamo seguendo, ormai siamo in una siamo in una addirittura fase d'arrivo, molto avanzata. Pare, se non ci sono le deroghe, cioè succede per esempio, capisci, che a Treviso chiedono di annettere il comune di Scorzè, che in questo momento è sulla provincia di Venezia, perché così se c'è quel territorio in più rientrano nei parametri di grandezza territoriale, per cui Treviso si salva. Cioè, siamo anche a Trapani, che mancano alcuni chilometri, quindi è chiaro che capisce che però locale che con la legge non si può fissare mai. Ci provano. Senta, le devo chiedere questo, Presidente. Ieri Repubblica scrive, per la verità riprendeva il settimanale S di Catania, che in un anno i consiglieri di Catania provinciali sono riusciti ad accumulare spese per 215.000 euro. Io sono sicuro che sarà tutto legale, lei presidente della provincia di Catania, nel senso che sono i famosi rimborsi che, cioè non è che girano troppi soldi anche nelle province, rimborsi che poi i consiglieri spendono in modi un po' impropri, diciamo, visto che sono soldi pubblici. Ieri Repubblica ha fatto un ottimo servizio, però lo ha, sono delle cose abbastanza conosciute. La provincia di Catania nel 2012, quello si riferiva al 2011, nel 2012 ha eliminato il trasferimento ai gruppi consiliari. Abbiamo imposto 4 anni fa una linea del rigore nella gestione delle missioni, dei rimborsi. E devo dire, personalmente non utilizzo nemmeno il telefono dell'amministrazione, quindi abbiamo ridotto significativamente i dirigenti. C'erano 38 dirigenti, di cui 27 esterni. Oggi ci sono solo 11 dirigenti interni. Oggi si fa una selezione, chi va in missione selezioniamo l'agenzia che offre il prezzo, o cioè la compagnia che offre il prezzo minore per andare per in cui missione. Dice, quindi sprechi non ce ne sono, ormai è una fase chiusa, non trasferiamo più le risorse ai gruppi consiliari, quelle attività di carattere istituzionale vengono vagliate. No, perché sa, per esempio, a sempre Repubblica oggi scrive che il presidente della provincia di Trapani, che si è dimesso per, quindi corregionale per lei, si è dimesso per candidarsi alle prossime elezioni in Sicilia. Mezz'ora prima la giunta ha deliberato 800.000 euro alla sagra della Cassatella, ad associazioni, parrocchie. E lei pensa che io posso dare il mio consenso a una cosa di questo? Io non l'avrei mai fatto. No, è chiaro, però non dire... è la provincia, non è la istituzione provincia, è il presidente della provincia che ha fatto una cosa che obiettivamente è una cosa che grida, che è scandalosa. No, certo, ma però il concetto non è che ci sono troppi soldi, cioè bisognerebbe eliminarli, così togliamo il rischio che qualcuno si faccia prendere in tentazione. Guardi, io purtroppo insisto su una vicenda: con il taglio ai trasferimenti alle province, che è un taglio assolutamente significativo, gli ultimi 500 milioni con la spending review, noi purtroppo se non facciamo un'analisi molto seria rischiamo di lasciare le risorse per queste attività, ma devo dire che ormai sono molto poche. E noi invece abbiamo bisogno di risorse per le scuole, per la viabilità provinciale, quindi penso che dipenda molto dai singoli. Oggi nelle province le posso assicurare con grande certezza che prioritariamente si assicurano i servizi. Per me, quando parliamo di priorità per la provincia di Catania, significa scuole, viabilità provinciale, assetto idrogeologico, quelle funzioni che obiettivamente hanno la necessità, la priorità di investire delle risorse. Sulle scuole ci vorrebbero tante risorse e non ci sono. Allora io preferisco eliminare le consulenze, eliminare tutti gli sprechi, le sagre, tutto quello che o i contributi alle sagre, per carità, le sagre che ci siano, no, che paghino, infatti, si paghino da soli. Tutto quando viene fatto con raziocinio, con equilibrio, con sobrietà, penso che si può fare tutto. Oggi le difficoltà, i trasferimenti, per una serie di ragioni, abbiamo contestato al commissario Bondi il criterio dei consumi intermedi. Sì. Quando si parla di consumi intermedi, molto spesso si aggrediscono servizi, non i costi della politica. Allora, noi su questo siamo molto rigorosi. Vogliamo eliminare gli sprechi, ma vogliamo mantenere i servizi. Questo è il nostro obiettivo. Staremo a vedere questo percorso. Un'ultima domanda è questa, Presidente. È riuscito lei in sede di Unione delle Province Italiane a far capire ai pisani e ai livornesi che dovranno unirsi? Li ha visti già tirare fuori i coltelli oppure stanno abbastanza tranquilli? Ma noi abbiamo sempre ritenuto che sul territorio vanno fatte le scelte. Non poteva essere il governo che imponeva delle scelte ai territori, che c'è la necessità di avere una dimensione più vasta, ottimale, che non poteva essere quello della piccola provincia molto spesso. Ho capito, ma pisani e livornesi, cioè lei ha presente? Infatti noi non abbiamo parlato né di accorpamento né di fusione, abbiamo parlato di riordino, quindi un territorio si riordina non guardando alle dimensioni. Io penso che anche il cittadino deve fare uno sforzo che deve credere in questo riordino, perché significherà maggiore efficienza, maggiore... È anche l'ultimo treno per salvarsi, perché o così o se no la gente dice basta. Ma la gente le abbattiamo. Dovrà seguirci in questo percorso, perché mi pare che abbiamo individuato, e noi insistiamo ancora su alcuni grandi temi. Quello delle regioni è venuto fuori con grande evidenza e con grande clamore, purtroppo, ma c'è un tema che riguarda, e che forse voi sola avete rilanciato ogni qualvolta noi siamo stati ospitati, c'è un tema che riguarda le società partecipate, le aziende collegate, strumentali. Costano 2 miliardi e mezzo solo i consigli di amministrazione. E soprattutto sono un bel bacino di voti. Indennità, rimborsi e tutto quello che vuole, era 110 milioni e ora sarà 40 milioni di euro. Quindi ritengo che su questo argomento 7 miliardi di euro e 2 miliardi di consigli di amministrazione, ATO, bacini imbriferi, agenzie territoriali, agenzie per la protezione. Già a nominarmeli mi verrebbe di prendere un'accetta, lei capisce? Accetta in senso ci fossero qui figurativamente. No. Lo abbiamo detto sempre, le province saranno in prima fila. Noi siamo interessati a voler ammodernare l'amministrazione del nostro paese. Vogliamo che non si proceda per slogan, una battuta, ma è pensabile che oggi il tema della regione venga affrontato con un altro slogan. Prima era abolire le province, ora l'altro slogan è abolire le macro regioni. Ma infatti io dicevo, chissà, le province gongoleranno a vedere quello che sta succedendo nelle regioni. Perché dice finalmente guardano altro. Gongolavamo prima e non gongoliamo oggi. Noi vogliamo che il Paese invece affronti queste che sono temi seri, di un riordino delle nostre istituzioni, che lo affronti e che poi affronti il tema dei costi della politica, che non significa diminuire la democrazia. Ma era chiaramente una battuta. Io intanto la ringrazio, il Presidente della Provincia di Catania, nonché il Presidente dell'Unione delle Province, di tutte le province italiane, Giuseppe Castiglione, del Popolo della Libertà. Come detto, la notizia che abbiamo sentito poco fa da Anna Migliorati in Breaking News è questa. Se non l'avete colta, Francone Fiorito, Erbatman è stato arrestato. Io lo so che già tutta una serie di giustizialisti a dire buttate via la chiave, stia in carcere, ma un attimo, no? ci dovrà essere il processo, eccetera, siamo a Sama all'arresto. È stato arrestato Francone Fiorito, l'accusa è quella di peculato, è stato arrestato su richiesta dei PM, il reato è quello, contestato, peculato, Batman Fiorito. Per il momento, dunque, sospese le comparsate in TV. Ecco, questa è l'unica cosa che si può dire. L'arresto di Batman Fiorito. Tenendo sullo sfondo questo, noi vogliamo continuare a parlare di regioni dopo le province con l'Unione delle Province Italiane. Voglio salutare i miei due ospiti. Sono un consigliere della regione Liguria, consigliere regionale Lorenzo Pellerano. Buongiorno Pellerano e benvenuto. Buongiorno a voi. Di che partito? Lista Biasiotti? Di che partito è lei? PDL? È una lista civica di centrodestra. Lista civica di centrodestra. La sento anche molto male, magari perfezioniamo, se ha un viva voce eccetera le chiederei di toglierlo. E intanto saluto Raimondo Donzel, che è segretario del Partito Democratico in Valle d'Aosta. Buongiorno Donzel e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Intanto non so se avete sentito la notizia, Pellerano ha sentito la notizia, l'ha saputa già o da noi adesso in diretta? No, è stato arrestato Franco Fiorito. Sì, l'ho saputa da voi pochi minuti fa. Esatto. Mi pare una cosa, come dire, una notizia che ci si poteva aspettare da un certo punto di vista, e sicuramente la magistratura avrà da verificare quei casi in cui il malcostume della politica supera, come dire, il limite del malcostume e basta, e diventa appropriazione di denaro pubblico per scopi privati. Ovviamente ora aspetterà, come dire, la magistratura a fare gli accertamenti, certo, del caso, con tutte le garanzie, tutte, come dire, la garanzia di un processo. Su questo normale. Non c'è dubbio. Senta, allora, lei 29 anni di lavoro, credo, di lavoro, fa il consigliere regionale, avvocato marittimista, è così, è giusto? È giusto, avvocato. È giusto. Lei avvocato. Ieri, dicevano almeno sul Corriere della Sera, si è inimicato un po' tutti alla regione, perché ha detto, ora vi spiego come funzionano i trucchetti per i rimborsi, per esempio i rimborsi chilometrici alla regione. Intanto ci dica, quant'è lo stipendio, quanto lei mette alla fine del mese in tasca? Lo stipendio netto, che così capiamo. Allora, non ci giro tanto intorno. Un consigliere ligure che abita a Genova guadagna 6.400 euro netti. Netti, questo è lo stipendio. Che si compongono, cioè quello che mi arriva in busta paga. Ah, ok, il totale. Il totale con tutti i rimborsi del caso. Allora, in questo caso è un'indennità lorda di 8.000 euro, a cui si sommano dei rimborsi spesa forfettari, cioè che non vengono parametrati rispetto a quello che, diciamo, viene giustificato dal singolo consigliere, ma sono parametrati in base al luogo di residenza del consigliere. Sì. Per cui si parte da Genova, dove il rimborso è di 2.800 euro, sì, e si arriva fino a 4.500 euro al mese, sì, si abita oltre 80 km. Cioè chi lavora a Genova, chi vive a Genova, lei vive a Genova per esempio, cioè se uno vive a 100 metri dalla regione e quindi, non so, esce, si fa una passeggiata, si beve il caffè e va in regione, prende comunque 2.800 euro per i trasporti? È così. La cosa è così. Per cui quello, io ci tengo anche a sottolineare questo rispetto alla situazione della regione Liguria, perché prima giustamente fatto accenno, ma tanti suoi consiglieri, diciamo suoi colleghi, si saranno, come dire, arrabbiati, la vedranno come, okay, non con particolare simpatia. L'unica cosa per cui veramente ci tengo a precisare le cose è che in questo caso si tratta di norme, cioè in Liguria, almeno per quello che so, e mi pare che la situazione non sia questa, Non si assiste a diciamo comportamenti personali corretti come, sì, quelli, sì, che sembrano essere emersi in Regione Lazio e, diciamo, anche no, ma infatti è tutto legale, cioè, nel senso, per carità. In questo caso si tratta proprio del merito delle leggi che si è dato al Consiglio regionale. Certo, lei dice, per esempio, io vivo a Genova, mi sposto in motorino e di questi 2.800 euro, quindi al mese ne spendo pochissimi per spostarmi, e siccome sono voci per spostarmi per i trasporti, in realtà è tutto legale, però non mi servono mica 2.800 euro per spostarmi e andare a lavorare in regione, ecco. Sì, sicuramente è, come dire, è una voce di rimborso comunque troppo ricca rispetto, ma diciamo il costo della politica possono essere alcune centinaia di euro per un consigliere come me. Io poi veramente abito in centro, per cui ma mi pare che anche per chi abita più lontano il rimborso forfettario di cifre che arrivano fino a 4.500 euro al mese. 4.500 euro, è vero che sono esentasse? Sì, direi che come rimborso spese. Quindi, ma sono a fronte di, cioè, neanche dire ho speso questo in trasporti, mi date questo, no? Uno può spendere 50 euro e si prende 4.500 se vive lontano, per esempio. Sì, è una voce forfettizzata, cioè in base a dove abiti viene rimborsata. Questo in passato poi aveva dato luogo a comportamenti non corretti. È chiaro. Abitava in centro a Genova, o piuttosto abitava vicino a Genova e dichiarava di abitare molto più lontano. Ah, certo. Cioè si prendeva la residenza. una residenza fasulla, insomma, per avere il rimborso più ampio. Succede anche questo. Mi faccio andare per un attimo in Val d'Aosta, dove c'è stata nei giorni scorsi una situazione paradossale. Raimondo Donzella, il segretario del PD in Valle d'Aosta. Quanto guadagna un consigliere in Valle d'Aosta, Donzella? Diciamo, chi non fa parte di commissione, diciamo il consigliere semplice, tra virgolette, sono 6.000 euro al mese, che sono stati ridotti l'anno scorso a 5.700 euro netti al mese. Netto. Poi naturalmente a seconda di chi, come noi, versa una quota fissa al partito, cioè un consigliere come me ha netto 3.900 euro, che come spesso ho detto sono molti, sono tanti, tant'è che ho sempre lavorato in consiglio regionale per ridurre questa cosa. Ecco, tengo a precisare che abito a 4 chilometri dal centro, sì, ma non ho nessun rimborso spese per viaggio. Vabbè, ma questo vede, nella regione Liguria invece hanno deciso così. Però lei è diventato protagonista della situazione paradossale, perché nella regione Val d'Aosta c'è la possibilità, c'è una legge che prevede che i consiglieri si possano anche autoridurre autonomamente, con un bel gesto, se vogliono, lo stipendio. Lei è l'unico che l'ha fatto, mi sembra di capire, uno dei pochissimi, l'unico forse? L'unico che l'ha fatto, però è stato preso in giro, certo. Perché se l'è ridotto di 100 euro e quindi di pochissimo. No? Sì, di pochissimo, però torno a ripetere, in realtà il gruppo del Partito Democratico è quello che versa di più al partito, come dallo stipendio netto, le ripeto. Questo è certificato da bonifici in modo assolutamente trasparente. Noi versiamo 1.700 euro contro una media che va dai 500 ai 700 euro di altri consiglieri regionali. La cosa paradossale è che io sono stato preso di mira, ma in realtà questa legge è stata fatta dopo che noi avevamo chiesto la riduzione dei consiglieri regionali, la riduzione degli assessorati, la riduzione dei doppi stipendi, la riduzione delle indennità. La maggioranza ha bocciato tutto e in sommo spregio a questo atteggiamento di indifferenza alla riduzione dei costi della politica ha messo questa legge. Sì. E quindi io quello che mi stupisco è che non ci si occupi del perché chi l'ha proposta la legge, il proponente, il relatore e quelli che l'hanno votata non si sono ridotti gli ascoltatori non so se hanno capito la situazione paradossale, cioè il consigliere Donzella si è ridotto lo stipendio, è l'unico che l'ha fatto, dice io mi riduco lo stipendio perché è giusto come gesto simbolico. No, io non l'ho detto, fra l'altro. L'ha fatto. È una cosa che è successa un anno fa. Di 100 euro, capisce che è stato un tritacarne mediatico per cui l'unico che l'ha fatto gli si è ritorto contro prendendola in giro, ma che fa 100 euro, ci prende in giro. Sì, però sarebbero comunque l'avessero fatto tutti. Su questo non c'è dubbio. No, ma sarebbero certo. 40.000, più di 40.000 40.000 euro all'anno del consiglio regionale. Ma su questo non c'è dubbio, però il paradosso è questo, che lei avendo fatto questo gesto è finito paradossalmente nelle critiche, perché l'ha fatto solo togliendosi 100 euro. La notizia di mezz'ora fa è che è stato arrestato Franco Fiorito. Siamo con il suo avvocato, sì, Carlo Taormina. Avvocato Taormina, buongiorno. Buongiorno. Allora, ce lo può confermare? È stato arrestato? Posso confermare, è in corso l'arresto. Ma dove si trova? Perché le agenzie dicono che è già in carcere. No, è in corso l'arresto, ancora non è... Ma insomma, è questione di qualche minuto. Sì, ma questo sviluppo come se lo spiega? Ma è uno sviluppo, guardi, se osserviamo quello che è accaduto sul piano della reazione anche dell'opinione pubblica, sembra quasi una risposta ad una richiesta collettiva e generale di arrestare Franco Fiorito. E insieme a Franco Fiorito, se fosse così, dovrebbero essere arrestati anche gli altri 70 consiglieri della Regione Lazio, perché esattamente quello che ha percepito Fiorito è quello che hanno, avuto anche tutti quanti gli altri, è evidente. Cioè lei dice dovrebbero arrestare tutto il consiglio regionale, anche la Polverini, no, magari. Ho detto che avrebbero dovuto. Avrebbero, arrestare, cioè se arrestano lui dovrebbero arrestare tutti. Il problema è che al di là di quelle che appunto che possono essere le pressioni di ogni genere che si sono sviluppate in questi giorni, dal punto di vista strettamente tecnico-giuridico, che è quello che a me interessa, sicuramente si tratta di un arresto che non poteva essere effettuato. La ipotesi del peculato che è stata formulata è battuta da tutta la giurisprudenza degli ultimi 20 anni, che considera i gruppi come associazioni private, e quindi quel denaro che entrava nei gruppi era denaro di privati, e quindi al massimo poteva essere oggetto di appropriazione indebita. Beh, di privati, però, cioè, era pubblico che diventa, diventa di privati. È la provenienza è pubblica, ma poi diventa giuridicamente privata. È come il finanziamento dei partiti, no? Che sono soldi nostri, che poi quando entrano nei partiti sono loro. Si ricorderà il caso di Boss Compagni, nessuno ha contestato il peculato. Sono soldi nostri, ma quando entrano a far parte dei partiti, esatto, sono soldi loro, e quindi piace sono o non piace dal punto di vista giuridico, è così. Allora, questo è quello che è accaduto, quindi ci troveremmo in presenza di un'appropriazione indebita e non di un peculato, il che significa che per l'appropriazione indebita non è prevista la custodia cautelare, per cui la nostra rimostranza è questa, la faremo. Però questo la farete. Ma senta, perché lei dice arrestando lui allora dovrebbero arrestare tutti i consiglieri regionali? Hanno preso esattamente gli stessi soldi che ha preso lui. E beh, però magari l'hanno utilizzati meglio. Di utilizzazione non c'è problema di utilizzazione, perché la legge prevede una generica utilizzazione per le attività politiche del partito, attenzione, non del gruppo come organismo della regione deputata. Ma però lui è accusato, poi so che respinge questo, ma è accusato di aversi preso il mutuo della casa, di aver dato soldi ad amici, di aversi preso la macchina. Ma il mutuo della casa l'ha preso e lo fa, che ragionamento è questo qui? Non capisco. No, l'accusa di aver utilizzato quei soldi lì del gruppo. È tutto sotto pagamento, guardi, il finanziamento per l'acquisto di una casa è di un anno fa, è pari a 500.000 euro che sono in corso di pagamento in rate normali come per tutti quanti noi cittadini, oltre a questo non è tutto, quindi... non si può parlare, ma voglio dire, quando noi a preparare una somma che stavamo calcolando con precisione, per capire appunto quelle che potevano essere le voci borderline piuttosto che altre, e naturalmente non abbiamo fatto in tempo. Comunque lei dice è stato un arresto a grande richiesta dell'opinione pubblica, mi sembra. Beh, non è un arresto sicuramente a grande richiesta dell'opinione pubblica, e non sempre quello che vuole l'opinione pubblica corrisponde a verità dal punto di vista tecnico-giuridico. Il resto lo capisco perfettamente, anch'io sono un cittadino e quindi penso determinate cose su questo finanziamento abnorme della politica, che anzi non ci dovrebbe essere sotto, né come politica del partito in senso stretto, né come queste forme surrettizie di finanziamento che provengono dai gruppi parlamentari. Va bene, io avvocato la ringrazio, la lascio andare, che avrà immagino altro da fare. Dove lo porteranno, immagino, a Regina Celi, a Rebibbia? Ma guardi, io non faccio il secondino. No, va bene, ho capito, però dove immagino che andrà? Va bene, la ringrazio, bene. Buona giornata avvocato Carlo Taormina. Allora torniamo da Lorenzo Pellerano, consigliere della regione Liguria, che ci sta spiegando un po' questa cosa dei rimborsi. Guardi che ci sono una serie di messaggi infuriati di gente che sta sulla strada, nel senso che lavora sulla strada, fa il commerciante, gente che fa il rappresentante, gente che fa l'agente, dice io viaggio, ma che sono sti rimborsi 2.800 euro per chi abita a un chilometro dalla regione Liguria? E così è. Così è, e in più l'altro aspetto che avevo sollevato è quello sul Via Card Telepass. Ah, ecco, straordinario, cioè, questo Via Card Telepass gratis alla regione Liguria, è grande. Cioè, questo è nato da un piccolo gesto che avevo fatto nel 2010, quando sono entrato in consiglio regionale. Sì. E mi è stato detto, guardi, lei ha diritto a Via Card e Telepass. Gratis. E io avevo detto, ma onestamente mi sembra una duplicazione. Cioè, personalmente ho preferito prendere esclusivamente la Via Card, di modo da distinguere quelli che possono essere i viaggi per motivi di istituzionali, di attività politica, rispetto a quelli del Telepass. Perché ovviamente quando poi su una macchina viene messo il Telepass, mi pare più difficile andare a distinguere quelli che possono essere i viaggi di lavoro dai viaggi personali, che possono essere le vacanze piuttosto che motivi più diversi per viaggiare in macchina. Ma perché il Telepass è gratis anche se lei va in vacanza, o gratis per le cose istituzionali? Che poi... Allora, viene rimborsato tutto. Poi dopo questa mia uscita, che peraltro avevo già fatto ad aprile, per cui ad aprile avevo fatto questa stessa affermazione dicendo mi pare eccessivo avere una cosa e l'altra, in questi giorni ovviamente l'attenzione è molto più alta e ne è venuta fuori un'attenzione anche da parte dei giornalisti molto più ampia. Si è arrivati alla pubblicazione dei dati ed è emerso che nei primi 8 mesi sono stati spesi circa 90.000 euro di 90.000 diciamo, euro pedaggi, di pedaggi. Viaggiate come consigliere regionale. Io come ho detto abito in centro e soprattutto a Genova mi muovo anche con i miei mezzi. Il motorino in autostrada sarebbe poco credibile. Non è il caso. è chiaro che da quello poi anche lo stesso presidente del consiglio regionale ha detto facciamo una valutazione se non è opportuno fare a meno del Telepass, o considerati poi tutti quei rimborsi di cui abbiamo parlato prima. Mi pare che anche le spese di pedaggio forse siano comprese. No, ma è chiaro. Io mi devo fermare qui. Mi dica solo flash, ringraziando Raimondo Donzel, segretario del PD Valle d'Aosta, e lei, Lorenzo Pellerano. Come la accolgono in consiglio regionale dopo che ha fatto queste uscite? La accolgono bene? Pacche sulle spalle a dire bravo, continua così? No. Ma diciamo, non è proprio questo l'atteggiamento, ma sono convinto che adesso passate queste uscite un po', che ci tengo a dire veramente, io non è un atto di accusa nei confronti dei miei colleghi, forse è un invito a riflettere su quella che è la nostra trattamento e su quello che il Consiglio regionale può fare per migliorare sui costi della politica, però diciamo non le danno grandi pacche sulle spalle, non le offrono tanti caffè. La ringrazio però, Lorenzo Pellerano, consigliere della Regione Liguria. Ci fermiamo qui, ci troviamo domani alle 6:30.